911 highest emergency? Yeah, can you please send rescue? I think I'm having an overdose and so is my wife. Overdose of what? Spazi estate viaggi. Ottava puntata. Dalla Paz a El Alto, Bolivia. Ciao Pera, come va? Comunque, come va? Ciao Pera, comunque. Spazio estate viaggi. Oh yeah, baby. Estamos fumando TNT. Andamos quemando THC. Estamos fumando TNT. Allora, Radio Onda d'Urto. Ay, ay, ay, ay. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Spazio Estate Viaggi. Ottava e terz'ultima puntata di questo format estivo firmato Don Pierce, che vi terrà compagnia per i prossimi 90 minuti. Dopo le due puntate speciali con il DJ set di Bless the Ladies e la compilation, torna Spazio Estate Viaggi nella sua formula original. Inizieremo infatti la puntata con il racconto del viaggio in bici, per poi proporvi l'intervistona e infine la rubrica di Mirko, dagli Appennini alle Ande, uno sguardo italiano alla cultura dell'America Latina. Vi siete persi le scorse puntate? Le trovate tutte sul sito di Radio Onda d'Urto cercando Spazio Estate Viaggi, ma anche su mixcloud.com/DonPairs. Potete interagire inoltre con questo programma attraverso i social Facebook e Instagram donpairs.it. Questo episodio è stato registrato negli studi di Radio Onda d'Urto via Luzzago, Brescia. Bendecio, me dice mami, tu eso es mío. Lo despierto si está dormido, dándome a M como mío. Un culo bendecio, me dice mami, tu eso es mío. Lo despierto si está. Prima del sommario della puntata, qualche messaggino che ci è arrivato in settimana. Eccoli qui. Ciao Pera, come va? Comunque volevo farti notare che ciclo viaggiatore inesperto, ascoltando le tue puntate di Spazio Estate Viaggi, non ti si addice molto come inesperto, perché sei partito un po' alla follia, ma per fare tutti quei chilometri un po' di allenamento e un po' nella testa la passione per la bicicletta la devi avere, perché io non riuscirei mai a fare una cosa del genere. È bello come nome, ma visto i tuoi viaggi direi che inesperto è tutt'altro. Ciao, buona continuazione. Mio. Ciao ragazzi, allora vi dico io il discrimine per vedere se Giacomo è un ciclista esperto o inesperto. Se ha ancora i peli nelle gambe è un ciclista inesperto, se invece li ha rasati, se tiene le gambe rasate, allora è esperto. Ascolta, per scusa se ti rispondo ora. Allora, altra cosa, io dico che almeno i primi 1000 chilometri, da quanto ho capito, eri molto inesperto, perché da quel che ho, dalle foto che ho visto, te gavi solo il reggisella, non te gavi neanche la sella, te andavi via solo col paletto. Dopo non so, se, non so mia le altre, se più avanti negli altri chilometri te l'hai messo, però almeno nelle foto dei primi 1000 vedeva sempre che era solo il paletto che veniva fuori e sella non l'ho mai vista, non so. Buono, ciao, buona domenica. Tutto lì. Grazie per i vostri messaggi. Continuate a scriverci su Facebook e Instagram all'indirizzo donpears.it. Donpears.it. Dove troverete anche le foto e i video del viaggio in bici. Tra cui forse anche la foto delle gambe. Ringraziamo anche la Yuli e poi Anna e Giovanni, Pietro, Mirko e aspettiamo ancora un messaggio di un certo Nico. Lui sa chi è. Messaggio vocale. Per le prossime ultime due puntate di Spazio Estate Viaggi. Passiamo quindi al sommario di questa ottava e terz'ultima puntata di Spazio Estate Viaggi. In questo episodio riprenderà il viaggio in bicicletta di Giacomo. Si trova ancora in Sud America e più precisamente nei dintorni di La Paz, Bolivia. Quest'oggi Giacomo ci proporrà degli aneddoti sul viaggio in bici, ci racconterà altre difficoltà della vita sopra i 4000 metri e ci porterà a El Alto, città gemella di La Paz. Nella seconda parte del programma andrà in onda l'intervista realizzata con gli attivisti e le attiviste della rete della diversità Huayna Tambo. Con loro parleremo di radio, di attività sociale a forte orientamento politico e delle altre cose che succedono nel loro spazio, che si trova al lato del mercato di El Alto. Infine, anche per questa puntata, la rubrica di Mirko. Dagli Appennini alle Ande, uno sguardo italiano sulla cultura dell'America Latina. In questa puntata Mirko ci parlerà di Reinaldo Arenas, scrittore cubano, amico di José Yezama Lima e di Virgilio Piñera. Arenas fu perseguito a Cuba per la sua omosessualità e dissidenza dal regime di Castro, esattamente come Piñera. In esilio a New York ha continuato a scrivere lottando per le libertà dell'isola fino alla sua morte, causata dall'HIV. La sua autobiografia, Prima che sia notte, è stata trasposta al cinema da Julian Schnabel con Javier Bardem nella parte dello scrittore. Ancora un po' di musica, poi la prima parte di Spazio, Estate, Viaggi. Buon ascolto sulle frequenze antagoniste del Gatto Nero. Nell'ultima puntata di Spazio Estate Viaggi vi ho raccontato, e non ho ancora finito, delle grandi fatiche fisiche dei primi 1100 km in bicicletta nelle Ande boliviane. Tutti questi chilometri sono stati finora i più duri del viaggio e si sono aggiunti ai quasi 2000 km già pedalati in Argentina. Vi ho raccontato della mia notte in tenda nel più grande deserto di sale del mondo, a Uyuni, dove ho sentito il suono del silenzio più silenzioso della mia vita, oltre alla grande, enorme stellata e al panorama quasi lunare osservato in questo luogo. Vi ho raccontato di Potosí, una delle città più alte del mondo, delle sue miniere, dei miei risvegli improvvisi per la mancanza di ossigeno quando ho dormito in questo genere di posti, specialmente tra i 3500 e i 5000 metri. Vi ho raccontato in parte di Mujeres Creando, storica organizzazione femminista boliviana conosciuta in mezzo mondo e della loro sede a La Paz, la Vergine dei Desideri, nella quale ho trascorso 11 giorni. Infatti, la Vergine dei Desideri possiede alcune camere per i forestieri con un'anima transfemminista come la mia. Il mio racconto di oggi riprende circa 1000 chilometri prima di La Paz, alla frontiera con l'Argentina. Arriverò a La Paz e poi fino a El Alto, dove ho incontrato, tra l'altro, gli attivisti e le attiviste di Huayna Tambo. Sono Giacomo, cicloviaggiatore, sempre meno inesperto. Ho deciso di partire in bicicletta da Buenos Aires a inizio febbraio. Ero convinto di poter arrivare almeno fino a Salta, nel nord dell'Argentina, ma quando ci sono arrivato ho deciso di continuare il viaggio almeno fino a La Paz, Bolivia. Quando ci sono arrivato ho deciso di non smettere di pedalare e continuare a salire verso il nord, in direzione Perù. Si io fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Non mi è mai piaciuto il calcio, nonostante sia cresciuto e abbia vissuto circa 14 anni a Stadio, celeberrimo quartiere semi-periferico del comune di Verona. Per mia fortuna, non ho mai frequentato le curve per seguire i campionati di calcio. Non sono nemmeno capace di giocare, a differenza di molti altri sport che ho sempre amato seguire e praticare e nei quali me la cavo discretamente, come il rugby, la pallavolo, la palla a canestro, il tennis, il nuoto e naturalmente la bici. Di conseguenza ho sempre seguito con poco interesse anche i grandi miti di questo sport, o almeno quelli che la mia memoria classifica come miti, tipo Pelé, Baggio, Ronaldo, Thuram, Tommasi, Weah e ovviamente Maradona. Proprio su di lui, ma non troppo sul calcio, ho radicalmente cambiato opinione. Durante i 2000 km di pedalate tra Buenos Aires e La Quiaca, frontiera con la Bolivia, che vi ho raccontato nelle scorse puntate, ho dovuto fare i conti col calcio e in particolare con un suo mitico esponente sudamericano che con l'Italia ha sviluppato indelebili legami. Infatti in Argentina ho visto murales che celebravano il Pibe de Oro costantemente. Uno tra i più belli, proprio alla Quiaca, nei pressi della frontiera, mi ha commosso. Il volto stilizzato del Dios e la scritta Adios. Dopo un mese e mezzo fantastico, passato in uno dei paesi più belli, diversi e coinvolgenti che abbia mai visitato, la scritta Adios, accompagnata dallo sguardo di Cebollita, mi fa battere forte il cuore. Maradona è stata una costante del mio viaggio, una specie di presenza invisibile che mi ha accompagnato per tutta l'Argentina. Non ero impazzito. Più che altro, in Argentina ho sentito parlare di Maradona più di qualsiasi altro tema o argomento. Sempre in positivo, nessuna critica, come mi capitava invece con altri personaggi decisamente più controversi e non solo del mondo del calcio. Maradona, mi hanno spiegato, ho capito, è un mito perché ha dato l'idea che anche un paese come l'Argentina può restituire la dignità a una classe sociale povera e oppressa dalla quale proveniva il campione. È il personaggio che ha spiegato al mondo che ognuno e ognuna di noi vive con i propri limiti. Lui vivrà in eterno, la stragrande maggior parte di noi no, ma entrambe ed entrambi abbiamo dei limiti. Maradona ha saputo mettere in pratica l'internazionalismo attraverso lo sport, andando a vivere a Napoli, in Italia, creando ponti e non gettando bombe tra due continenti che furono in guerra fino a qualche decennio prima. È stato un immigrato nello stivale, certo di lusso, una specie di expat, diremo oggi, che però si è fatto amare, rispettare, che ha contribuito alla gloria di una città, Napoli, a sua volta martoriata da un'immagine spesso falsa, propagandata dai grandi media nazionali al servizio del capitale, che ha tutto l'interesse a mantenere il popolo diviso e ineguale, al fine di sfruttarlo. Anche per questo Maradona è stato un grande, perché si è trasferito a Napoli in anni difficili, quando da lì si fuggiva al nord o all'estero. Ci sono arrivato tardi, ma l'Argentina mi ha fatto capire l'importanza del Pibe, che nonostante la fama, il denaro e il successo, è rimasto umile, voluto, amato, riconosciuto, popolare. Entrando in Bolivia, lascio l'Argentina con l'ultimo murales di Maradona, con in basso scritto «La vida es una tombola». Grazie Diego Armando. Il tuo sguardo mi ha poi accompagnato per tutti i successivi 3.000 chilometri, per un viaggio fantastico, nel quale, come in una tombola, come nella vita, non si sa mai cosa possa regalarti l'imprevisto. Dopo aver salutato Maradona e l'Argentina, sono entrato in Bolivia, come avete sentito dallo scorso episodio. Quello che non vi ho raccontato è un altro dei miei argomenti che mi ha perforato il cervello durante praticamente ogni giorno del mio viaggio: i cani. Dei cani ai concerti a cercare la droga. Cioè, ma vi rendete conto? C'è mica pannella qui al concerto, Tranquilli, non c'è problema, per le droghe andate in discoteca, no qua. Non ci sa mica bisogno di droghe noi. Tutto al naturale. No, non ho trovato i cani antidroga in frontiera, anche perché non avevo niente da temere. Però i cani sono stati una costante di tutto il viaggio. Come il calcio, questi animali non hanno mai suscitato in me particolari emozioni. Ho dovuto convivere con dei cani quando sono cresciuto. Nella mia famiglia c'era un piccolo bastardino di mia sorella, che è campato 20 anni, durante i quali l'ho quasi sempre ignorato. Poi, da quando me ne sono andato a vivere da solo, non ho più avuto animali domestici. Ho vissuto in molte città e in diversi paesi, sempre in case abbastanza piccole, ma con giardino. Nonostante questo, non ho mai voluto un cane, né mio né di altri. Penso che, come le piante, non sia adatto per vivere in un appartamento. Non ho voglia di trovargli un albergo quando me ne vado via per lavoro, né di alzarmi presto la mattina per portarlo a spazzo, né di raccogliergli la merda con il sacchettino. Purtroppo però, in questo mondo bisogna avere rispetto un po' per tutto, comprese le persone che dicono che i cani sono meglio delle persone. Così mantengo le mie distanze dai cani e, per quanto possibile, non entro mai in conflitto con i loro padroni. Non intendo farlo con questo spazio e mi scuso anticipatamente se offenderò involontariamente qualcuno o qualcuna con questa storia. In Sud America il cane o la cagna sono una costante inevitabile. Ce ne sono ovunque, di tutti i tipi. Sono molto diversi, non tanto le razze, le qualità rispetto a quelli che ci sono in Europa. È più che altro il rapporto che la società ha sviluppato con loro. Nelle città, per quanto esse stesse presentino delle notevoli diversità, esistono grosso modo due famiglie di amici a quattro zampe: quelli ricchi e quelli poveri. I primi godono del successo dei loro padroni. Sono di cosiddette razze pregiate, sono puliti, sempre al guinzaglio, e quando frequentano i parchetti urbani, i loro padroni e le loro padrone si portano sempre appresso il famoso sacchettino. I cani poveri invece vivono nelle periferie, nei quartieri, ai margini di una società che li ha abbandonati, esclusi, in parte rinchiusi nei canili. Mangiano poco, dormono per strada e si prendono delle gran sassate appena si permettono in qualche modo di disturbare l'attività degli esseri umani. Cani e cagne si baciano in tutti i modi, per così dire, visto che questo programma è adatto anche ai bambini. Non fanno differenza, non stanno in coppia e non si sposano, però si danno un sacco di baci. Ormai si parla di pasticcone, il pasticcone del 2000! Anche a me piacerebbe essere come loro, in realtà. Questi cani e queste cagne hanno però la fortuna di poter vivere in libertà, pur non mangiando abbondantemente, però vivono senza padrini o senza padroni. I cani nelle città non sono mai pericolosi. A volte hanno un padrone che li sorveglia, oppure quelli selvaggi hanno la paura che li tiene a bada. Non mi spaventano, a volte giocherellano, cercando di rincorrermi mentre pedalo, ma al primo mio sguardo severo o una parola se ne vanno intimoriti. Molto diversi sono i cani delle campagne. Anche in questo caso divido la mia ricerca in due categorie, i ricchi e i poveri. Io sono la variabile dipendente e il luogo è la variabile indipendente. È andato tutto bene fino al nord dell'Argentina, quando dopo circa 1800 km di pedalate, un cane molto, molto, molto grosso inizia a corrermi appresso, da lontano. Fortunatamente i cani non hanno il mio stesso livello di intelligenza e non capiscono che se sono lontani ed iniziano ad abbaiare, prima di correre verso di te, ti lasciano il tempo di accelerare. Il problema però è che sono oltre i 3000 metri e lo scatto, con 60 kg di bagagli, pur con la strada pianeggiante, mi strangola cuore e polmoni. Quella prima volta durante la quale ho avuto il terrore di un cane che mi rincorreva, sono riuscito a scappare. Il mio amico Rodrigo, però, più lento di me e con qualche chilometro di ritardo, ha perso una borsa, poiché morsicata e distrutta dallo stesso cane. Era un cane appartenente alla categoria ricca, di campagna, a guardia di un allevamento. La seconda volta che rischio di farmi sbranare un polpaccio o una borsa della bici o altro, mi trovo in Bolivia, nei pressi della piccola località di Cucho Ingenio, in piena salita a circa 3700 metri. Questa volta, per scappare dal cane, rischio un incidente cardiaco fatale. Il cane è molto grosso, sicuramente con un padrone ricco, anche questa volta. Poiché lo vedo, è ben nutrito, agile, forte, muscoloso. Non gli si vedono le costole come ai poveri cani abbandonati che ho già incontrato lungo la strada e che ti fanno gli occhi dolci nella speranza di guadagnarci una qualsiasi cosa da mettere sotto i denti. La corsa di questo secondo cane parte da una vasta proprietà, dove al centro troneggia una casa, non di lusso, ma chiaramente di un benestante, una di quelle case abbastanza rare in Bolivia. Inizia lo scatto, ma il cane è veloce e io pedalo in salita. Si avvicina, accelero, faccio il gesto di tirargli una pietra. Ma lui non fa una piega, continua il suo scatto, io il mio. Dopo almeno un chilometro di corsa, riesco a seminare lui e la sua rabbia. Pedalo altri 500 metri dopo averlo visto desistere, sempre guardando all'indietro, cercando di andare dritto e di non farmi investire da un mezzo motorizzato. Poi mi fermo, non riesco quasi più a respirare. Il cuore mi batte all'impazzata. Lo sento in tutte le mie parti del corpo, soprattutto, preoccupante, a livello di giugolare, sulle tempie e nelle orecchie. I miei polmoni sembrano bruciare. L'ossigeno, già insufficiente a quelle altitudini, sembra non esserci più. Sudo, tossisco, mi tremano le mani dalla paura. Cerco di allontanarla, ma inizia a salirmi la rabbia, che comunque non mi serve per tranquillizzarmi. Vorrei cercare il padrone per dirgli che del suo cane se ne devo occupare. Sono su una strada pubblica, statale. Non ho provocato il cane, non sono entrato nella sua proprietà. Sono semplicemente un ciclista e non posso rischiare che a centinaia di chilometri da un ospedale un cane mi ferisca in modo grave. Nessuna ambulanza è di servizio nelle province boliviane. Potrei anche morire dissanguato. E anche se sono vaccinato contro la rabbia, è molto difficile reperire l'antidoto che va comunque somministrato in caso di morso. Riprendo la calma, ma decido di proseguire, anche se mi fermerò, penso, nella prima locanda disponibile sul cammino per passare la notte. Dopo i primi due incontri di cane davvero pericolosi, vivo un paio di settimane nel terrore, al punto che penso che potrei addirittura sospendere il viaggio. Questa Bolivia, penso, è troppo dura per un ciclo amatore poco esperto come me. Forse è meglio tornare in Europa o comunque cambiare paese. Poi però mi faccio forte. Leggo tutto quello che trovo su internet a proposito di come difendersi da cani aggressivi. Inoltre domando alle persone che incontro durante la strada. Tra le numerosissime informazioni poco raccomandabili che trovo, tipo difendersi dai cani con un combattimento corpo a corpo, se necessario, penso che potrei comprarmi una tromba da stadio a gas, oppure uno spray al peperoncino. Non ho nessuna intenzione di vendicarmi o di esercitare violenza su un essere vivente, ma se mi trovassi a rischio di farmi asportare una caviglia, beh, cercherei di difendermi con questi strumenti. Giro tutta la città di Potosí per una giornata intera, nel mio day off, per riprendermi dalle fatiche dei 4.000 metri. La tromba da stadio e lo spray al peperoncino sono però introvabili. Mi dicono che non c'è motivo di usarli, che li avrei trovati alla pass, distante però 500 km. Per difendermi dai cani mi dicono avrei dovuto usare del cibo. Non è vero però. I cani che hanno cercato di aggredirmi sono detenuti dai pochi benestanti boliviani che non soffrono la fame e vogliono difendere coi denti il loro territorio. Leggo altre informazioni e mi convinco che, in caso di un'altra aggressione, mi sarei fermato, fatto scudo con la bicicletta per impedire al cane di attaccarmi. E così è stato. Non ho più avuto problemi coi cani e la paura è passata nel giro di qualche settimana. Ne incontrerò tanti altri, ma scendendo dalla bici con un pezzo di pane, senza parlare e senza guardarli negli occhi, non succede quasi mai nulla di speciale. È stato un altro grande insegnamento del viaggio. La strada dove finisce, senza piedi userò le mani, mani. Dopo aver imparato come comportarmi in caso di potenziale aggressione dai cani ed aver comunque ulteriormente rafforzato il mio fisico, sono distrutto. Per questo i primi 5 giorni alla Paz li passo praticamente sempre a letto. Con gli occhi della rabbia e dell'arcobaleno che non conoscono la destinazione e che mi dicono... Sono nella casa di Mujeres Creando, la Virgen de los Deseos, nel tranquillo quartiere centrale di Sopocachi, a La Paz. Ho conosciuto Giulietta tra le fondatrici del movimento femminista. L'intervista avete sentito nella 7ª puntata di Spazio Estate Viaggi. Finalmente ho conosciuto brevemente anche Maria Galinto, volto storico del movimento. È giovedì sera, ti dia il turno da volontaria al ristorante della Casa delle Virgen de los Deseos. Maria Galindo è in assoluto l'attivista politica che ho conosciuto che più mi ha colpito. Non solo ha un coraggio straordinario, rischia la vita, ogni giorno rischia aggressioni fisiche e verbali, così come migliaia di altri attivisti e attiviste sudamericani. Non solo rischia ogni giorno denunce per l'attività politica che svolge. Non solo si presenta ai tribunali con le vittime dei femminicidi a discutere con giudici corrotti e mescolati con la peggiore parte della società politico-economica boliviana. Non solo riceve settimanalmente decine di persone, soprattutto donne, per ascoltare le loro storie, spesso drammatiche, di violenza, storie dell'orrore che non ho voglia di ripetere. Non solo scrive libri radicali, taglienti, che hanno successo in mezzo Sud America e in diverse parti del mondo. Non solo ha uno stile unico e provocante nel vestire, nel parlare, nel truccarsi, nel presentarsi. Non solo valorizza la sua cultura originaria boliviana. Non solo è psicologa e viene invitata a conferenze in Europa e Stati Uniti regolarmente. Non solo molte pubblicazioni scientifiche citano le sue opere, che invece non sono mai di carattere scientifico, ma hanno comunque un'importanza enorme per l'area femminista più radicale e per il mondo universitario. Non solo è una grande artista, di cui alcune opere sono state acquistate dal Museo Reina Sofia di Madrid, e i cui proventi lei reinveste e regala all'arte e alla cultura, specialmente a donne ed artiste emergenti. Non solo le sue dirette Facebook, quando è su Radio Deseo, il media della casa di Mujeres Creando, arrivano facilmente a 5.000 visualizzazioni contemporaneamente, senza contare le repliche. Maria Galindo è soprattutto una donna, con una straordinaria passione per la lotta politica, nella quale investe tutte le sue energie, che inevitabilmente la fanno soffrire. Se hai una coscienza anarchica e femminista, accollarsi le storie delle violenze, vivere costantemente il disagio di una società macista e corrotta, vedere la controrisposta capitalista alla lotta e la potenza di fuoco che viene usata contro alcune battaglie politiche, anche in Bolivia, deve essere, immagino, durissimo. Ecco perché Maria mi ha fatto così tanto effetto. È una donna straordinaria, fuori dal comune, che ha già fatto e continua a fare la storia del femminismo boliviano e mondiale. Non ho il coraggio di chiederle un'intervista. È talmente impegnata in attività decisamente più importanti della mia, un piccolo programma di radio, che le sorrido, ci stringiamo la mano e la ringrazio per tutto quello che fa per le donne, per la Bolivia, per tutte e per tutti noi. Al di hippi di ripi i diritti diritti di hippi di ripi di ripi di ripi di ripi di ripi di ripi di ripi di ripi di ripi di ripi. Sono felice di essere stato due settimane nella casa delle Mujeres Creando. Sono cresciuto, ho imparato, ho visto un posto vivo, positivo, ricco di persone straordinarie. Che lindo, a los brothers pone un ritmo. Come vi ho raccontato nella scorsa puntata, mi trovo alla Paz e sto facendo delle interviste. Mi sono fermato 11 giorni nella capitale della Bolivia. È un posto difficile. Mediamente la città è a 3.600 metri e qualsiasi attività fisica taglia il fiato, nonostante mi trovi già da più di un mese ad oltre 3.000 metri di altitudine e abbia il fisico allenato da oltre 3.000 km percorsi in bici negli ultimi due mesi. Ancora più difficile è sopportare El Alto, città gemella della capitale, confinante, ma che si trova 600 metri più in alto. 1 milione di abitanti a 4.150 metri di altitudine media. Una delle strade che ho percorso in bici per salire dalla Paz a El Alto è lunga meno di 3 km. Il dislivello oltre 600 metri. Per questo, quando devo ritornare all'alto per il mio appuntamento con Wainat Tambu, la cui intervista sentirete a breve, ho preso il teleferico. È un mezzo di trasporto meraviglioso. Una lunga funivia a cabina nella quale posso mettere la bicicletta, con diverse fermate. Con meno di un euro, in 20 minuti, arrivo comodamente, in teleferico, dalla Paz a El Alto. Con l'autobus ci avrei messo almeno un'ora. A piedi sarei collassato per strada. Lo straordinario mezzo di trasporto è stato inaugurato nel 2014. È lungo 32 km ed è di proprietà del governo boliviano. Salgo così a El Alto, attraverso l'enorme, colorato e rumoroso mercato, e arrivo dagli attivisti e dalle attiviste di Wainat Tambu. Questa è l'intervista che ho registrato quel giorno. Señora, por quien tiene que luchar cuando rezan a María, a todos ella escucha. Como así el pueblo es bueno, también busca la verdad. No se meta con el monstruo que la pueden aplastar. Galindo, qué lindo. A los brothers pone ritmo, ella es Galindo, qué lindo. A los brothers pone ritmo. Wainat Tambu e l'Alto. Allora, vorrei chiedervi inizialmente di presentarvi brevemente, per favore. Mi nome è Jasmine Kisbert, sono parte dell'equipo di Wainat Tambu. Mi nome è Stefania Burgoa Calatayud e anche sono parte del Wainat Tambu. Hola, io sono Pablo Beque, anche sono integrante di Wainat Tambu, già 10 anni. Hola, mi nome è Mariana Rodriguez, sono parte del Wainat Tambu. Quando e perché è nata Wainat Tambu? Chi l'ha fondata e per quali esigenze specifiche? Di chi si fonda e per quale esigenza specifica? Mira, d'inizio è un gusto che tengamo questa conversazione e sapere che possiamo far conoscere il lavoro di Wainat Tambu e della rete della diversità in altri luoghi. Guarda, prima di tutto vorrei dirti che è molto bello che facciamo questa conversazione. Sapere che così possiamo far conoscere il lavoro di Wainat Tambu e della rete della diversità in altri luoghi. Detto questo, Wainat Tambu fa parte della rete della diversità. La rete è integrata da circa 19 collettivi. Poi le mie compagne qui ti diranno che altri collettivi ne fanno parte. Però all'inizio c'erano tre radio sorelle, che hanno iniziato ciò che adesso è la rete della diversità. Una è l'Alto, qui vicino alla Paz, è Wainat Tambu. Poi ce n'è un'altra radio nel sud della Bolivia, a Tarija, che si chiama Yembe Tirenda. E infine una radio che si chiama Sipas Tambu, a Sucre. Quindi siamo tre radio che sostengono il lavoro comunicativo della rete della diversità. Però Wainat Tambu è come la sorella maggiore e così la sua storia è un po' più lunga. Con un discorso politico e con un discorso culturale che è nata qui nel 1995. È stato un lavoro che ha avuto a che fare fin dall'inizio con un discorso politico e culturale collegato con la fine della stigmatizzazione delle persone di qui, negli abitanti di L'Alto, perché la città di L'Alto era vista come un spazio conflittivo, spazio di risse, e L'Alto aveva questo prestigio, questo immaginario da parte della gente che viveva alla Paz o in altri posti del paese e che guardavano all'Alto come luogo dell'arretratezza, il posto delle bande criminali, delle droghe, dell'alcolismo. Quindi, contro tutto questo stigma, si decide di sviluppare un lavoro culturale, comunicativo ed educativo qui all'Alto, per capovolgere questo discorso e far sì che i giovani, soprattutto i giovani di L'Alto, abbiano la propria voce, che possano dire che L'Alto non è solo questo, non è solo bande criminali, alcol e droga, ma c'è una proposta, uno sguardo differente alla città e al paese. Con quest'idea si inizia a fare un lavoro qui alle Alto. La storia di Huaynatambo non inizia con una radio, ma con uno spazio culturale. Nel 1995 questo spazio culturale stava nascendo e poi nel 2002 inizia la storia della radio. Però le due cose non sono separate. Como espacio cultural, entonces se hacían estas actividades de debates. Come spazio culturale organizzavamo attività di dibattito. Si discuteva su come intendere la cultura, la politica, l'identità, identità nel senso che qui è Alto, c'è tutto un incrocio di immigrazione peruviana dall'oriente della Bolivia, però c'è anche una forte presenza culturale indigena, aymara. Entonces ahí hay eso es fuerte es característico del Alto. E questa è una caratteristica forte di Alto. Ed è una caratteristica anche di Huaynatambo, perché a partire da questa identità, negata dalla stigmatizzazione, si rivalorizza ciò che è aymara. Quindi abbiamo pensato a uno stile di comunicazione, a uno stile di attività artistiche e culturali, senza perdere questa prospettiva identitaria. E alla fine si consolida uno stile nella casa della cultura di Huaynatambo. Facciamo fiere itineranti, cioè occupiamo spazi pubblici, saliamo da quello che è una casa culturale convenzionale e creiamo spazi culturali in strada. Questo per decentralizzare la cultura, per essere noi più importanti. Solo un gruppo sociale aveva il privilegio di accedere a certe attività culturali e questo gruppo era la classe media, gente con un certo ingresso economico che andavano soprattutto alla Paz. Tutta l'attività culturale era concentrata in questa parte di La Paz, il centro, il Prado, e non c'erano opzioni per le persone che vivevano ai margini della città. E allora, questa idea di Huaynatambo è importante perché facciamo gestione culturale in un'altra direzione, dispute politiche e culturali fuori dal centro della città. Questa idea di Huaynatambo è importante perché fa gestione culturale en otro sentido, disputa políticas culturales por fuera de las ya establecidas. Entonces, vamos a ocupar estas plazas, ahí hay mejor conecte con vecinos, vecinas. Quindi, andiamo a occupare queste strade. Lì c'è una connessione migliore con i vicini e le vicine, che non solo partecipano alle attività culturali, ma tirano anche fuori altri temi, la sicurezza, l'illuminazione pubblica, l'accesso all'acqua potabile. Le fiere di strada rivelavano tutto ciò, queste carenze in vari spazi di Le Alto, e per noi era importante raccogliere queste richieste, perché aiutano ad andare verso una sistemazione di Huaynatambo, perché l'attività culturale non è solo un'esibizione di artisti o una sfilata di attività musicali o teatrali, ma è anche una denuncia di come la città cresce e viene gestita dalle persone qui a Alto. Un'altra delle caratteristiche di queste attività culturali era che i giovani finalmente avevano uno spazio per loro, perché El Alto, all'inizio, non era uno spazio in cui le voci dei giovani fossero ben accolte, esattamente per quella stigmatizzazione che era una zona rossa, voglio dire, una zona pericolosa, e dove i giovani si dedicavano solo a delinquere. Quindi, lo spazio che ha aperto Huaynatambo mette in discussione tutto ciò. Cioè, i giovani sono veramente così? O questo stereotipo su di loro, creato dai media, crea una barriera? È un qualcosa su cui abbiamo riflettuto e lavorato molto. E c'è una grande quantità di proposte. Si inizia ad ascoltare la voce dei giovani, a partire dai generi musicali più contemporanei, il rap e il rock. Cantano cose con questi generi stranieri, nordamericani, europei, però in fusione con generi locali, musica autoctona. Cioè si sta pensando a una fusione di dialogo intergenerazionale, ritmi propri e con una forte denuncia politica. Questo è interessante, è venuto il momento in cui la proposta artistica qui alle Alto non era solo una goduria, una festa, ma le opzioni, le proposte venivano da lì. Las opciones, las propuestas de ciudad salían de ahí. Eso como breve de lo que ha sido el paso de Huaynatambo. Questo, in breve, ciò che è Huaynatambo. Adesso siamo in Calle Dolores. Se qualcuno si avvicina, ci può sentire. Però non è stato lo spazio madre di Huaynatambo. Huaynatambo è nato in una piccola stanza, grazie anche alle compagne qui. Però abbiamo scommesso sull'autogestione di uno spazio proprio, uno spazio da cui nessuno ti possa cacciare e in cui nessuno può dirti come organizzare la gestione. È stato importante per noi arrivare ad avere questo spazio. Adesso racconteremo come e in che modo. Esattamente. Infatti mi gustaría saber... Esattamente. A me piacerebbe conoscere lo spazio in cui siamo adesso, com'è gestito, com'è costruito, ma anche cos'è cambiato in Huaynatambo con questa nuova sede. Comparazione. Inoltre vorrei anche far conoscere agli ascoltatori e alle ascoltatrici le attività che proponete qui dentro, ma anche fuori da questo spazio, in strada. Come un poco disiste antes che se propone però che se passano fuori da questo spazio. A ver, partiamo. Ustedes alguno tú quieres contar del espacio? Sí. Por ahí, bueno, yo no estuve, Huaynatambo tiene 27 años, estamos hablando de 27 años, hace 27 años. Bene, Huaynatambo ha 27 anni, nasce in un quartiere di Alto, un po' più distante da qui. Attualmente stiamo nella calle 8 di Villa Dolores. Per chi ci sta ascoltando, perché possa immaginarsi, siamo nel mezzo di un mercato. Inizialmente era uno spazio dove vivevano le famiglie dei minatori dopo la rilocazione dell'86. Quindi è alto non solo ha una storia, una matrice culturale aymara, ma anche una storia a partire dalle miniere e da quei sindacati che avevano fatto fronte alla dittatura. Quindi questo spazio ha anche questa storia che noi abbiamo riscattato. Visto che siamo in una fiera, possiamo parlare della diversità dal punto di vista degli alimenti, della connessione tra campo e città. Quali sono queste connessioni che abbiamo noi con l'area rurale? C'è un incontro tra le nostre identità, le nostre manifestazioni culturali con altre, rituali, alimentari, e che si possono vedere qui. Esa idea, en esa idea, Huaynatambo es un tambo, y que es un tambo es un espacio del encuentro. Los tambos básicamente son espacios donde llegaban de las comunidades y aquí se redistribuía la fruta, se intercambiaba. In questa idea, Huaynatambo è un tambo. Il tambo è uno spazio di incontro. I tambo erano spazi dove la gente arrivava da fuori e si riuniva per distribuire la frutta, la verdura. È uno spazio di incontro. Huaynatambo è questo spazio d'incontro, un bello spazio che abbiamo adeguato perché possa tenere uno scenario per permettere alle bande locali di manifestarsi, uno spazio per i laboratori, una cucina, però soprattutto, ci sembra importante sottolinearlo, c'è la nostra gestione vincolata al territorio, perché tutte le attività che organizziamo non possono essere separate dalla nostra popolazione. Quindi, come formiamo questa connessione a partire da ciò che gestiamo? Ecco, non si tratta di arte per l'arte, piuttosto di una gestione politica a partire dall'arte, l'educazione e la comunicazione. Noi lavoriamo, nelle nostre discussioni, sul senso coloniale della città, che ha finito per allontanare e stigmatizzare le periferie. Ci occupiamo, tra l'altro, di temi quali la decolonizzazione, la demercantilizzazione, e queste discussioni le traduciamo e le trasformiamo in produzioni comunicative, educative e culturali. Lavoriamo su tutto ciò con il territorio, a partire dai mercati, dalle reti. In questo modo è nata una rete di cura e di tutela che si è andata allargando grazie alla rete della diversità durante la pandemia. Così rispondiamo ai momenti di crisi da 27 anni. Queste attività sono tutte a favore del tessuto sociale e di questo territorio. Il tema di come la scuola, la idea delle crianzas comunitarias è una gestione comunitaria del territorio más allá de la escuela misma. Allo stesso modo è nata la piccola scuola del vivere bene, una scuola per bambini e bambine in cui lavoriamo su come la scuola, la crescita dei bambini, è una gestione comunitaria del territorio, più che della scuola stessa. Quindi il tema è vincolare la scuola al territorio. Questo ci ha portato a creare reti come la Rete della Diversità, che ha connessioni anche con Sucre, Tarija, Copacabana. Non siamo solo i teatranti che fanno il loro spettacolo, siamo uno spazio culturale però anche di produzione, di gestione, di lavoro comune, nell'orizzonte del vivere bene. È molto importante menzionare tutto ciò. Gestire lo spazio, disputare lo spazio pubblico, è una delle nostre scommesse molto ambiziose. Così come ci appropriamo della piazza, rivitalizzandola con azioni comunitarie. Come il quartiere inizia a farsi carico delle sue piazze, delle diverse gestioni, come pensiamo al mercato, come pensiamo ai campi da gioco, se vogliamo che siano chiusi o no, illuminati o no. Todas esas disputas, esas discusiones se realizan desde estos espacios. En sí, Huaynatambo se va, tiene... Tutte queste discussioni si realizzano in questo spazio. Huaynatambo ha 5 aree, la gestione comunicativa che comprende la radio. Ci sono le riviste di conversazione che escono ogni anno e sono la sistematizzazione del nostro lavoro. Si parla di comunità urbane, del tema educativo per la crescita della comunità. L'ultimo testo che è uscito si concentra sugli alimenti per la vita, legato alla situazione che abbiamo vissuto durante la pandemia. E il prossimo testo che uscirà il mese prossimo è sulla gestione economica, ciò che abbiamo chiamato economia di redistribuzione, perché anche noi abbiamo fatto un lavoro di 27 anni e come l'abbiamo sostenuto? Lo sosteniamo grazie a reti di fiducia, alla gestione comunitaria. Queste gestioni economiche sono state importanti e ci sembra importante condividerlo, non tanto come verità assolute, però come proposte. Nos parece importante compartirlo no como verdades únicas, sino como propuestas de lo que se puede llevar a cabo. Entonces, poi c'è il tema delle case culturali, le case della cultura, che sono varie e che mano a mano si sono unite. E portiamo avanti anche il tema del servizio di cura domestica. Discussioni che si tenevano anche prima della pandemia su come generare una cura collettiva per la crescita di ciò che è comunità, anche per poter resistere nei momenti di conflitto. Come generiamo cuidati collettivi per la crianza de lo comunitario, come lo menzioniamo qui, però anche per resistere in momenti di conflitto. Vorrei aggiungere qualcosa a ciò che ha detto Jasmine riguardo come siamo riusciti a conquistare lo spazio. Inizialmente eravamo in affitto, affittavamo questo spazio per l'attività dei giovani. Era uno spazio di grandezza media, di 3x3 metri, però ci è servito all'inizio per poter sviluppare queste conversazioni ampie su cosa si stava intendendo con essere altegno o altegna, o essere giovane in questo contesto urbano, o come recuperare un dialogo e i saperi ancestrali di nonni e nonne. E conversazioni come questa hanno modellato lo spazio di Huaynatambo, che si fa visibile e pubblico grazie al lavoro della radio. Del Huaynatambo, che también se visibilizza o se escucha nel trabajo radial. A un certo punto abbiamo lasciato quello spazio piccolo e siamo arrivati qui, in questo spazio più grande, una casa che acquistiamo con risorse nostre, perché c'era stato un lavoro di risparmio da parte della prima generazione di Huaynatambo. E poi ci prendiamo il rischio di aprire un prestito per comprare la casa dove stiamo adesso. Quindi risorse nostre, il prestito e le attività posteriori che ci hanno aiutato a pagare questo prestito. Questa è la storia della casa, che come ti dicevo è vincolata strettamente alla radio. La radio, esa es la historia de la casa, y como te decía, la historia de la casa está ligada a la radio. La radio ya es... La radio apre nel 2012. La prima generazione di Huaynatambo organizza già un programma radio che si chiama Il buco nel muro, che si caratterizza per approfondire il tema di persone del territorio, che offrono uno sguardo differente su ciò che sta succedendo. Cioè, non sono interviste al funzionario pubblico o alla polizia o al medico, ma piuttosto alle persone in sé del territorio, su ciò che si sta vivendo in quanto a sicurezza, salute, cultura. Voglio dire, non andiamo dal segretario di cultura a chiedere che tipo di politica culturale svilupperà nel quartiere. No, noi andiamo a chiedere al vicino, alla vicina, al giovane, di cosa hanno bisogno o cosa cercano nel quartiere. ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué mira como gestión cultural en el lugar? Es decir, y al mismo tiempo, como te decía, allo stesso tempo, i temi sono trasversali. Per esempio, parliamo di salute pubblica. Possiamo parlare del campionato di calcio, però anche di come questo aiuta la salute del quartiere. Cioè, si iniziano ad ascoltare le voci stesse delle persone. Una cosa importante per la radio è la diversità, come stiamo intendendo Bolivia nei suoi diversi aspetti. Bolivia, a un certo punto, è stata una repubblica e in quanto tale scommetteva su un'omologazione dei suoi cittadini, cioè tutti con la stessa cultura, le stesse caratteristiche civiche. Il buco nel muro, come radio, tratta di questo. La Bolivia non si può capire a partire da un'omologazione di uno Stato o di una Repubblica. Parliamo del fatto che c'è uno sguardo sul paese aymara, uno sguardo quechua, uno sguardo dall'oriente del paese. E a parte questo, non ci sono sguardi interni. Per esempio, il giovane non vuole essere la stessa cosa che è stato suo nonno o sua nonna. Lì c'è il tema generazionale. In sentito questo programma di radio, che fu in una radio amica. Tutto ciò dà senso a questo programma radio, che andava in onda su una radio privata. Poi c'è stata l'occasione di comprare una radio nel 2002, che si chiama Radio Graffiti. Questa radio ospitava il programma Il buco nel muro e lo trasmetteva. E abbiamo avuto l'occasione di comprare questa radio con risorse nostre. Risparmiare nel lavoro è stato importante. I soldi arrivano da due parti in quel momento. L'autogestione, cioè l'organizzazione di concerti, vendita di cibo e bibite, però si è deciso anche di lavorare con altre entità. C'erano organizzazioni e ONG che venivano in Bolivia e vedevano Huaynatambo e ci proponevano di darci soldi per far sì che ci espandessimo in altri quartieri, in altre parti della città. E la politica di Huaynatambo era di rifiutare inizialmente, non volevamo che ci condizionassero nel lavoro, perché ci avrebbero tolto indipendenza. Però c'è stato un momento critico in Huaynatambo, in cui l'associazione voleva espandere il suo lavoro e quindi è diventato necessario vedere che altre risorse avevamo. Perché altri recursos se tenía. Se decide tener este apoyo económico. E decidiamo di accettare l'appoggio economico di queste organizzazioni internazionali, con il criterio che non possano mettere più del 50% delle risorse che noi già abbiamo, in maniera di poter continuare con la nostra autonomia. Non c'è condizionamento economico, non ci possono imporre temi e inoltre devono seguire il lavoro culturale di Huaynatambo. Sigan il lavoro di Huaynatambo, cultural, e ahí ha sido ese colchón también, autogestión. Con l'autogestione e le risorse che vengono da questi gruppi, riusciamo a comprare anche la radio. Nel 2002 acquistiamo la radio. Questa presenta già il carattere culturale e territoriale che appartiene a Huaynatambo. Pensiamo a una radio che parli della decolonizzazione, che parli a partire da una conversazione orizzontale, cioè normalmente il commentatore si pone su un piano elevato, si sente superiore. Questo nella nostra radio non esiste. Facciamo sì che l'intervistatore non si senta migliore dell'intervistato. Después, este tema de la despatriarcalización, también importante para nosotros. Poi c'è il tema della depatriarcalizzazione, molto importante per noi. È il tema della diversità, cioè come pensare al paese a partire da questa complessa diversità. Tutto ciò ha delineato il lavoro comunicativo di Huaynatambo. E c'è stato un momento, il 2003, è stato un anno importante per Huaynatambo, perché c'è stato il governo di Gonzalo Sánchez, dello SADA, neoliberale, che voleva esportare in quel momento il gas della Bolivia agli USA, attraverso il Cile. e per questo il paese si è ribellato. Il governo ha risposto con un massacro militare qui a El Alto e ciò è stato importante per Huaynatambo, perché nei media tradizionali non si menzionava il massacro che si stava vivendo. Huaynatambo, essendo una radio locale, si è presa l'impegno di informare su questi massacri del 2003. Questo fatto del 2003 ha significato una connessione più forte con El Alto. Hanno iniziato a riconoscerci come media locale che non si vende. Non nasconde la sua voce su ciò che succede qui a El Alto. Questo ha fatto sì che vicini e vicine hanno riconosciuto il lavoro comunicativo sincero, che non si vende. Riconoscano un lavoro comunicativo sincero, che non si vende. Nosotros no recibimos publicidad de transnacionales, no recibimos publicidad de algunas organizaciones ahí que pueden dirigir la opinión pública. Noi non riceviamo pubblicità da parte di nessuna organizzazione e quando riceviamo qualche ingresso economico dallo Stato, facciamo in modo che sia in un senso culturale o educativo, non in una linea politica. Per questo la gente riconosce il lavoro di Huaynatambo come indipendente, perché dice cose sincere, senza censure politiche. La radio tratta il tema educativo in due aree, la comunità del sapere e dell'apprendere, che si occupa di temi più congiunturali, di processo, e poi la piccola scuola del vivere bene. E Mariana, che è parte di questo spazio, ci può raccontare qualcosa di questa esperienza con bambini e bambine. Algo que es muy importante, yo creo, rescatar del trabajo, que es lo que te convoca a ser parte de la Huaynatambo, ¿no? Como ya han escuchado mis compañeros, esto de la Huaynatambo tiene 27 años. Y las... Qualcosa che per me è molto importante nel lavoro di Huaynatambo è il senso politico che ci muove, perché si viene qui, in questo spazio, ad apprendere anzitutto. È un posto molto bello in cui ci si sente bene. Poco tempo fa c'è stato un incontro della Rete della Diversità, in cui abbiamo potuto imparare molte cose sul lavoro che si realizza qui con tutte le persone che hanno qualche connessione con il posto. La piccola scuola del vivere bene è un qualcosa che la gente cerca. E come possiamo unirci alle persone? Lavorare qui è stata un'opportunità in questo senso. Io sono animatrice del laboratorio di teatro. Faccio teatro con i bambini. Mi occupo anche del tema della corporeità e questo è molto interessante, far capire alle madri come sentire il loro corpo e come sentirsi parte di questo spazio. Ora do la parola a Stefania, prima che finisca il tempo. Tener y entender su cuerpo como territorio y también el sentirse parte de este lugar tan bonito de Villa Dolores. Y le doy ahora la palabra a Lani antes de que se acaben los minutos. Bueno, voy a hablar algo más cortito también de la escuela. Parlerò in breve della piccola scuola del vivere bene, di come poter creare territorio qui a El Alto. Noi facciamo questo a partire dall'accompagnamento pedagogico alle madri. Abbiamo delle aree di progetto in cui noi aiutiamo nell'apprendimento e organizziamo anche visite a Copacabana e a diversi posti, così che loro possano imparare in questo modo. La piccola scuola del vivere bene nasce l'anno scorso con i problemi sorti con il Covid. I bambini erano senza attività organizzate e così qui apriamo, dopo varie conversazioni che abbiamo avuto per dare il via a questo apprendimento con bambine e bambine, e apriamo la piccola scuola del vivere bene per sviluppare il tessuto della cura verso i bambini. La scuola del vivere bene per poter lavorare più lo che sono i tejidos e di cuidado. Questo sarebbe. La rete della diversità non è uno spazio che nasce così solo per fare gestione culturale. Nel 2006 nasce Yemba Tirenda a Tarija, che ha la sua propria radio, una specie di spazio che i vicini di Luis Espinal hanno saputo riconoscere. Uno spazio dove si possano gestire queste cose a partire da queste discussioni. Algo igual super importante en Sucre en 2008. El 24 de mayo de 2008 existe un acontecimiento en el país muy fuerte que es... E della stessa importanza, a Sucre nel 2008 avviene un fatto di discriminazione quando hanno obbligato varie persone di diversa estrazione a riunirsi in piazza a Sucre e mettersi in ginocchio. Un fatto di discriminazione molto forte nel paese. In quel momento si stava cambiando il governo e il movimento del socialismo stava entrando nel governo e per questo sono iniziate delle azioni forti di razzismo, azioni discriminatorie contro gli indigeni e a partire da lì nasce la SIPAS Tambo che sviluppa un lavoro culturale e educativo. Tres de ellas tienen radios culturales, pero lo que nos interesaba recalcar es son estas. Nasce così la rete della diversità con tre case. In questo momento siamo più di 12 case con spazi culturali. Tre di esse hanno una radio. Vogliamo evidenziare l'importanza di queste reti che sono andate espandendosi. Noi facciamo una gestione culturale che però parte da una prospettiva politica. Abbiamo fatto un lavoro organizzativo in piena pandemia per focalizzare spazi di ridistribuzione alimentare e per discutere di che tipo di salute abbiamo bisogno dopo la pandemia. È interessante come la nostra rete ha risposto a tutto ciò. Noi ne facciamo parte della cultura vivente del continente sudamericano. E quando pensiamo alla gestione economica, ai risparmi, ai prestiti, è necessario ricordarsi anche di questa rete che ha sostenuto il nostro lavoro per 27 anni, non solo dal punto di vista economico, ma anche per quel che riguarda la cura e la protezione per portare avanti i nostri progetti. Abbiamo anche una sala di lettura che apriamo per leggere i libri, non solo per discuterli. Uno spazio di cinema. Il cinema come spunto di discussione. Abbiamo dei cicli di film. I concerti, poi, sono importanti per la gestione culturale. La cucina è un altro spazio per fare attività e offrire un servizio. E a partire da lì si organizzano molte altre cose. Questo, in breve, è Waina Tambo, la rete della diversità. Non è solo una resistenza, ma anche una reazione che parte dalle nostre discussioni. Non sono solo resistenze, sino sono le resistenze a partire dalle nostre discussioni. Perfetto. Grazie. Due parole per concludere, Sighiera. Sogniamo per seguir luchando. Y estamos conectados con Espacio Estate. Anoche soñé que despertaba y no dolía cuando respiraba. Anoche soñé que caminaba y me reía a carcajadas. Anoche soñé que te veía en un tablao, gitano en Granada. Anoche soñé con vos y el despertador fue como una patada, porque desperté en este mundo que duele, donde los papeles importan más que las pieles. La masacre del hombre por el hombre, alta peli, miseria en cada esquina, te mienten en la tele. El odio mata, el odio muele. Desigualdad, maldad y formas crueles. El odio quema. Ben ritornati negli studi di Radio Onda d'Urto di Brescia. Avete ascoltato l'intervista a Waina Tambo, registrata a marzo presso El Alto, Bolivia. Ne approfittiamo per ringraziare Jasmine Kisbet, Estefania Burga Qualantayu, Pablo Veche e Maria Anna Rodriguez, ospiti di Spazio Estate per Waina Tambo. Un mondo meno mierda, meno guerras, más canciones, meno views, meno likes, meno drama, más condones. Quiero que se traduzca el discurso en acciones, que cuando escuches música te emociones. Un saluto speciale, un ringraziamento alle doppiatrici e al doppiatore di questa intervista, Lucia, Carmela e Pietro. Porque siempre me recuerda donde yo empecé. Dopo un po' di musica, a breve è in arrivo l'attesissima rubrica di Mirko, che questa settimana ci parla di Reinaldo Arenas. Restate all'ascolto di Spazio Estate Viaggi e di Radio Onda d'Urto. Dagli Appennini alle Ande, uno sguardo italiano alla cultura dell'America Latina. Oggi parliamo di Reinaldo Arenas, scrittore cubano, omosessuale e dissidente del regime di Fidel Castro. Grande amico di Virgilio Piñera, morì suicida, da esule a New York, dopo aver contratto l'HIV. La sua opera rappresenta un grido di disperazione e protesta contro l'ingiustizia della dittatura castrista e contro l'ipocrisia del capitalismo americano. Reinaldo Arenas è nato in Campania, ad Aguas Claras, nella parte settentrionale della provincia di Oriente, e la sua famiglia si è poi trasferita a Holguín. La sua prima adolescenza contadina è stata segnata dalla sua schietta opposizione alla dittatura di Batista. Ha collaborato con la rivoluzione cubana, fino a quando, a causa dell'esclusione a cui era sottoposto, ha optato per la dissidenza. La sua presenza pubblica e intellettuale gli valse una marcata antipatia ai più alti livelli dello Stato che, insieme alla sua omosessualità, provocò una persecuzione aperta e senza sosta nei suoi confronti. In tutta la sua vita, Arenas riuscì a pubblicare un solo libro a Cuba, Celestino antes dell'alba, che esaurì la sua prima edizione in una settimana e non poté essere ristampato. Questo primo romanzo dà inizio a una pentagonia di libri sulla rivoluzione, che prosegue con El Palacios de las Blanquísimas Mofetas, Otra vez el mar, El asalto e El color del verano, romanzi in cui l'autore esprime il suo entusiasmo iniziale e la sua successiva disillusione. Soprattutto in Otra vez el mar, fino a concludersi in una parodia grottesca, carnescialesca e festosa di essa in El color del verano, ambientato nel 1999, durante le celebrazioni per il 50° anniversario del trionfo della rivoluzione. Reinaldo Arenas ha subito persecuzioni non solo per la sua aperta omosessualità, ma anche per le sue critiche al governo, che gli hanno precluso molte possibilità di sviluppo come scrittore e intellettuale negli anni del massimo ostracismo culturale e settario dell'isola. Contemporaneo e amico di José Lezama Lima e di Virgilio Piñera, fu imprigionato in condizioni durissime, ammettendo anche l'indicibile e rinnegando se stesso. Questo provocò nella sensibile personalità dello scrittore un pentimento che andò oltre le mura della prigione di El Morro, dove restò tra il 1974 e il 76. Così profondo nel suo cuore che finì per odiare tutto ciò che lo circondava. In questo periodo scrive la sua autobiografia, intitolata Antes que anochezca, prima che sia notte. Negli anni 70 ha tentato più volte di emigrare, senza riuscirci. Infine, nel 1980, lasciò il paese, durante l'esodo di Mariel. A causa del divieto di lavorare, ad Arenas non fu permesso di partire, ma riuscì a farlo cambiando il suo proprio cognome in Arenas. Da quel momento, e nell'esilio mai accettato a New York a causa del conservatorismo e dell'omofobia degli esuli cubani legati al Partito Repubblicano della Florida, sviluppò una profonda visione intellettuale dell'esistenza, inquadrata tra la più bella espressione poetica e la più amara sconfitta del disincanto. Si stabilisce a New York, dove nel 1987 gli viene diagnosticato l'HIV-AIDS. Quando Reinaldo Arenas sentì la morte vicina, decise di fare qualcosa. Il tristo mietitore non avrebbe preso decisioni per lui. Avrebbe fatto lui il passo successivo. Quando la polizia di New York entrò nel suo appartamento la notte del 7 dicembre 1990, 28 anni fa, scoprì il corpo dello scrittore accanto ai resti di un cocktail mortale, un bicchiere di whisky mezzo bevuto e una bottiglia vuota di tranquillanti. È stata trovata anche una lettera d'addio in cui Arenas incolpava Fidel Castro della sua solitudine, dell'esilio e della malattia che lo ha spinto al suicidio. La nota, firmata da Arenas, recava un po' scritto: da pubblicare. Lo scrittore non sarebbe dovuto morire quel pomeriggio. Secondo l'autore stesso, la sua morte doveva essere avvenuta nell'inverno del 1987. Quell'inverno, tra forti febbri e polmoniti inclementi, i medici individuarono nel sangue dell'autore la terribile malattia che lo avrebbe tenuto a letto per settimane in un ospedale di New York e lo avrebbe afflitto per il resto della sua vita. Reinaldo Arena aveva l'AIDS. Una volta guarito dalla polmonite e rientrato nel suo appartamento, strisciò davanti alla foto dell'amico, collega e connazionale Virgilio Piñera, al quale chiese, come se pregasse l'immagine di un santo, come scrisse Arenas nel prologo della sua autobiografia Antes que anochezca, altri 3 anni di vita per finire il mio lavoro, che è la mia vendetta contro quasi tutto il genere umano. Arenas aveva bisogno di tempo per terminare altri 2 romanzi di una serie di 5, che l'autore stesso chiamava Pentagonia e che trattava la storia segreta di Cuba. I 5 racconti narrano 5 agonie con ampie dosi di aneddoti personali dello scrittore, in cui i personaggi centrali sono vicini alla morte perché la morte è inevitabile e perché per Arenas la morte significava anche liberazione. Il primo romanzo di questa catena fu Celestino antes dell'alba, l'unico che Arenas riuscì a pubblicare a Cuba. Dopo la stampa di questa storia, nel 1967, Arenas fu considerato un trasgressore del regime rivoluzionario. Ciò che gli accadde negli anni successivi è una storia di persecuzione e censura, di prigioni e campi di concentramento, con l'unica colpa di essere omosessuale e scrittore. Arenas riuscì a lasciare Cuba nel 1980, durante lo storico esodo di Mariel, in cui circa 125.000 isolani, stufi del governo di Castro, fuggirono negli Stati Uniti, in cerca di libertà. Reinaldo Arenas si stabilì inizialmente a Miami, ma la notte di Capodanno del 1980, proprio quando le strade di New York sembravano più luminose, si innamorò delle luci di Times Square e decise di stabilirsi lì vicino. Nella sua autobiografia scriverà che la città gli sembrava un'enorme festa, una grande festa che è durata 2 anni. Non passò molto tempo prima che Arenas si disamorasse di tutto questo. In un documento uscito nel 2004, intitolato Seres Extravagantes, Esseri Stravaganti, lo scrittore si presenta. Mi chiamo Reinaldo Arenas. Sono uno scrittore cubano in esilio. Vivo a New York, dove mi dedico alla scrittura e alla sopravvivenza. Sono un dissidente in tutti i sensi, come si dice qui, perché non sono religioso, sono omosessuale e allo stesso tempo sono anticastrista. In altre parole, credo di soddisfare tutte le condizioni per non avere mai un libro pubblicato e per vivere ai margini della società in qualsiasi parte del mondo. Dopo anni di penuria e dopo la sua morte, forse perché per gli editori era più redditizio stampare i libri di uno scrittore recentemente morto, il resto delle sue opere fu pubblicato nel corso degli anni 90. Ecco una breve descrizione dei 5 romanzi di Arenas che formano la pentagonia sulla storia segreta di Cuba. Celestino antes dell'alba, 1967. Reinaldo Arenas ha iniziato la sua carriera letteraria con questo romanzo, che gli è valso un concorso di narrativa organizzato dall'Unión de Escritores y Artistas de Cuba, dove José Lezema Lima era uno dei giudici. La storia centrale racconta le vicende di un ragazzo contadino di nome Celestino, il cui talento letterario lo fa bandire dalla famiglia. A tratti surreale, la storia di Celestino si sviluppa in una lotta per sopravvivere all'ostracismo familiare, scrivendo sulla corteccia degli alberi, per terra o ovunque sia possibile scrivere. Reinaldo Arenas si riflette in tutta la storia nel personaggio di questo ragazzo. El Palacio de las Blanquísimas Mofetas, del 1980. In El Palacio de las Blanquísimas Mofetas seguiamo Fortunato, un adolescente che cerca di fuggire dalla sua famiglia unendosi nel 1959 ai ribelli della rivoluzione cubana, cosa tentata anche da Reinaldo, che durante l'adolescenza è stato un sostenitore del regime, fino a quando non è diventato disilluso dal significato della rivoluzione nella sua storia personale. In questo romanzo Arenas fa una severa critica sociale e politica dell'isola. Reinaldo Arenas tentò di scrivere questo romanzo quando era ancora a Cuba, ma fu confiscato e distrutto e riscritto innumerevoli volte. Otra vez el mar, del 1982. Questa storia, scritta come un romanzo e un poema di 6 canzoni, cerca di raccontare la vita di una coppia che vuole dimostrare il proprio affetto, ma le cui differenze sono così grandi e le rendono così incompatibili che la relazione subisce gravi alti e bassi. Per questo motivo questa storia è scritta in due lingue diverse. Il romanzo è di una donna e il poema è recitato da un uomo. E l'assalto del 1988. Sebbene sia stato scritto prima di El color del verano, E l'assalto è in realtà il quarto capitolo della Pentagonia. Arenas ha iniziato a scrivere questo romanzo a Cuba e lo ha corretto in esilio. Questa storia vuole portarci in una Cuba distopica e orwelliana, dove l'omosessualità e la dissidenza sono punite con la morte. Qui il protagonista, un agente governativo, insegue anche la madre, forse la fonte della sua infelicità, per ucciderla. Qui Arenas muove una critica severa ai regimi totalitari, ma soprattutto alla rivoluzione cubana. È il color del verano, del 1989. In questo romanzo, scritto in punto di morte dall'autore, Arenas cerca di ritrarre in modo malizioso la vita sessuale dell'Havana, sullo sfondo di un grande carnevale che celebra i 50 anni di governo di un dittatore di nome Fifo, molto simile a Castro. Con tre personaggi che hanno molto in comune con Arenas, la storia procede con una gioventù stanca della repressione che intraprende una sorta di rivoluzione erotica in cui si rivelano altri problemi dell'isola. Nel 1992, due anni dopo della sua morte, esce Prima che sia notte, l'opera autobiografica di Reinaldo Arenas. Il libro descrive la vita dello stesso scrittore a Cuba, il tempo passato in prigione e la sua fuga negli Stati Uniti in occasione dell'esodo di Mariel del 1980. Inizia con l'introduzione scritta quando l'autore, ormai malato di AIDS, fa un bilancio delle sue opere, della sua vita e delle sue speranze di libertà per Cuba. I primi capitoli parlano della sua infanzia, della vita in campagna, povera ma felice, e della sua scoperta dell'omosessualità. Durante la permanenza al potere di Fulgencio Batista, la situazione economica peggiora e la famiglia di Reinaldo è costretta a vendere i terreni e traslocare in città. Venuto a conoscenza dei ribelli che vogliono abbattere il regime di Batista, giovanissimo, scappa di casa per unirsi a loro. Subito nota l'ipocrisia della rivoluzione, i processi farsa e le fucilazioni. Ottiene una borsa di studio per studiare da contabile agricolo, per amministrare le terre confiscate, dove dai professori sovietici riceve lezioni di marxismo-leninismo. Reinaldo, in tale ambito, continua a nascondere a se stesso la propria omosessualità, continuando a frequentare delle ragazze, ma è solo per salvare le apparenze. Inizia a lavorare in biblioteca, si riunisce clandestinamente per leggere poesie e romanzi con altri scrittori. Viene denunciato, la polizia irrompe in casa sua e lo arresta e requisisce il manoscritto O Traverse il Mar. Ad un certo punto riesce a fuggire via mare, rischiando la vita in quanto il mare era minato per impedire ai cubani di raggiungere la base statunitense di Guantanamo. Braccato dalla polizia, si rifugia in un bosco dove dorme sugli alberi. Inizia a scrivere Prima che sia notte, ma viene arrestato ed il suo manoscritto sequestrato. Viene imprigionato per mesi nel carcere del Morro, in attesa del processo. Viene picchiato e tenta due volte il suicidio. Poi, senza spiegazioni, viene mandato nel carcere speciale di Villa Marista, dove viene lungamente interrogato e poi condotto presso un campo di lavoro. Torna in prigione e una volta scontato la pena, torna libero, ma isolato, sia dagli ex colleghi che degli amici, tra i quali si nascondono anche agenti della sicurezza di Stato. Nel 1980 Fidel Castro permette agli indesiderabili dal regime di andarsene dall'isola. A seguito dell'invasione da parte di alcuni cubani all'ambasciata del Perù, i dissidenti vengono bloccati. Con uno stratagemma Reinaldo riesce a scappare, cambiando con una penna il suo cognome sulla carta d'identità, da Arenas in Arinas. Per qualche tempo risiede a Miami, per poi trasferirsi a New York. Viaggia per l'Europa, scoprendo l'ipocrisia della gente che non crede alla storia della sua vita. Il libro si conclude con una commovente e violenta lettera nella quale Reinaldo, Arenas, chiama in causa una volta di più Fidel Castro e il suo regime per la condizione precaria, disperata, in cui ha dovuto vivere la sua vita e morire la sua morte. Eccola. Amici cari, a causa dello stato precario della mia salute e della terribile depressione sentimentale che provo al non poter più scrivere e lottare per la libertà di Cuba, metto fine alla mia vita. Negli ultimi anni, benché molto malato, ho potuto terminare le mie opere letterarie, alla quale ho lavorato per quasi 30 anni. Vi lascio in eredità tutte le mie paure, ma anche la speranza che presto Cuba sia libera. Sono soddisfatto di aver contribuito, anche se modestamente, al trionfo di questa libertà. Metto fine alla mia vita volontariamente, perché non posso continuare a lavorare. Nessuna delle persone che mi stanno vicine è coinvolta in questa decisione. C'è solo un responsabile, Fidel Castro. La sofferenza dell'esilio, la solitudine e le malattie non mi avrebbero certo colpito se avessi potuto vivere libero nel mio paese. Esorto il popolo cubano dell'esilio, come dell'isola, a continuare a lottare per la libertà. Il mio non è un messaggio pessimista, è un messaggio di lotta e di speranza. Cuba sarà libera. Io lo sono già. Reinaldo Arenas. Ecco alcune delle opere di Reinaldo Arenas tradotte all'italiano. Il mondo allucinante, edito da Rizzoli nel 1971. Arturo, la stella più distante, edito da Cargo nel 2007. Lo sposo del mare, edito da Celibreria nel 2010. Prima che sia notte, edito da Guanda nel 1992. Finisce così l'ottava puntata di Spazio Estate Viaggi. Prossimamente, su queste frequenze e sul sito www.radionadurto.org, gli ultimi due episodi della seconda stagione di questo format estivo. Continuate a scriverci, a mandarci i vostri messaggi, anche vocali, all'indirizzo Facebook e Instagram donpers.it. donpers.it. In questa puntata abbiamo ospitato le attiviste e gli attivisti di Huayna Tambo, movimento di El Alto. Vi salutiamo. Un ringraziamento speciale a Carmela, Pietro e Lucia per averci prestato le loro voci in italiano nell'intervista. Saluti anche da parte di Mirko, autore della rubrica Dagli Appennini alle Ande, uno sguardo italiano alla cultura dell'America Latina. Io sono Giacomo e vi ho raccontato e continuerò a raccontarvi del viaggio in bici. A risentirci tra una settimana su queste frequenze. No, che io devo sempre diventare matto così. Devo sempre diventare matto. A me non mi sta più bene così, capito? Se non si può fare niente, io lo chiudo, perché la luce... Hai capito? Se non si può fare niente... Io per portare anche per i clienti non voglio passare, hai capito? Perché io sono una persona seria e le cose le voglio che siano chiamate da bene. Non posso lavorare in questo sistema! Radio, Radio Onda d'Urto, Radio.